penso proprio a te, mentre sbucci la tua vita che ha una scorza dura e non si dà mai, non ripiangerla, ma correggi la sua acidità con un gesto semplice a metà. Sai quanto è facile rinunciare alla tua libertà per avere in cambio la pietà. Puoi riconoscere che l'amore non dimora in te e vederti in solitudine. Sì, l'amore ha un costo, ma qualcuno già al tuo posto ha saldato il conto e non ti chiede niente in cambio, niente in cambio. Spendi il tuo talento, non gettarlo nel cemento. Questo è lo stipendio e non ti è chiesto niente in cambio, niente in cambio. Passo passo la sua voce.